Con quale prudenza l'anima deve comportarsi dopo la visita della grazia? Stai però attenta, o sposa. Quando lo sposo si assenta, non va lontano, e se tu non lo vedi, egli però sempre ti vede. È pieno di occhi, davanti e di dietro. Non puoi più nasconderti a lui. Egli tiene presso di te i suoi inviati, spiriti che sono messaggeri sagacissimi, perché osservino come ti comporti in assenza dello sposo e ti accusino al suo cospetto se sorprenderanno in te qualche segno di impurità e di leggerezza. Questo sposo è geloso. Se per caso accoglierai presso di te un altro amante, se cercherai di piacere di più ad altri, subito si allontanerà da te per unirsi ad altre vergini fedeli. Questo sposo è delicato, nobile, ricco, il più bello fra i figli dell'uomo, e perciò non si degna che di avere una sposa bellissima. Se avrà visto in te una macchia e una ruga, subito distoglierà da te il suo sguardo. Egli non può tollerare nessuna impurità. Sii dunque casta, sii vereconda e umile per meritare di essere visitata frequentemente dal tuo sposo. Temo che questo discorso ti abbia trattenuto un po' troppo, ma ciò che mi ha spinto alla materia così fertile è un tempo dolce. Non fu già per spontaneamente che protraevo l'argomento, ma vi ero trascinato, mio malgrado, dalla sua dolcezza.